Sei così bella che vorrei appiccicarmi addosso a te come la sabbia, amore mio. L'ultima cosa che vorrei è addormentarmi accanto a te come se calda, amore mio. L'ultimo mio libro, l'ultima storia che conosco, l'ultima parola, amore mio. L'ultima fatica, l'ultima cosa che respiro, l'ultimo cammino, amore mio. Voglio recitarti tutta memoria e a versi declamarti, e non è mai finita. L'ultimo mio cielo lo stendo a te, mia stella, fin quando non sarai qui tra le braccia mie. Sei così dolce che verrei tutte le onde che tu fai come se fresca, amore mio. L'ultima cosa che darei è il mio sorriso per te, guai a chi lo coglie, amore mio. L'ultima fermata, l'ultimo scalo, l'aeroporto, l'ultimo saluto, amore mio. L'ultima ragione, l'ultimo sorso d'infinito, l'ultima canzone, amore mio. E dimenticare tutta la storia e prosciugare i mari e non pensar più a nulla. L'ultimo pensiero sarà per te, mia rosa, finché ti stringerò qui tra le braccia mie. L'ultimo sospiro, l'ultima volta che io canto, l'ultimo regalo sarà per te. L'ultimo respiro.